sta facendo freddo. Che appaziappa. Che cosa siamo combinando, Natalia? Ami, ho finito di mangiare, ma ho preso il caffè e sono venuto in sala radio. Ah, via, da te ti ha bisogno la caffeina, beata te. Sono il problema, no, Paige? Pensavo ci fosse Gianni, ho chiamato un paio di volte, ma non c'era nessuno. No, negativo, non ho sentito nessuno. No. E cavagava. Gira, gira, su, mi curico un po' a riposare le tanche membra. Vabbè, andiamo a te. E tanto cosa vi porto? Ah, mi tocco un po'. Tra dopo devo uscire, devo comprarmi un po' di roba. Dove vuoi andare? A comprare la roba da mangiare? E io al supermercato qua giù vado. La roba? Ma devi sapere cosa è la roba? Roba magna! Ah, la intendi? Ehi, andiamo bene. Andà bene meda! Bene, bene, ma dopo entri, Natali. Come? Ma entri dopo. E dopo se ne voglia già entro, va. Bene, bene, ma tanto ce l'hai in macchina, no? Si esce così. No, non ne ho in macchina. Ah, ho capito. Bene, bene. Sei quanto, Natali, da fare a tuo luogo? Negativo, non è arrivato nulla perché c'è l'aeroporto chiuso a Bologna e lui è fermo a Bologna il pacco. L'ho guardato via internet ed è fermo a Bologna. E non è arrivato per quello, arriverà lunedì. Ah, cappa cappa. Beh, purtroppo questa neve è un macello. È un macello sì. Cappa cappa. E vabbè, gli arrivo lunedì. Ci non arrivi? Andare di rubigliello, vuol dire. Ehi, ehi, andare. Cosa vuol ripinare io? Ehi, te mi ricordi il nave. Nunca mi ricordo il nave. Eh? Hai sentito, Gianno? Vai, tu non ti la fai, devo mangiare su saggio. No, no. Appena appena, cavolo. Bello. Ah, te lo devo dire, la teoria, lo sai che... che è quello di Usina, si è venduto tutto. Ehi, l'ho detto, io l'ho sentito quando l'ha detto una certa persona qua in frequenza e che doveva vendersi tutto. Tony, già l'hai capito, Tony no. Ehi, si è venduto tutto. Dopo il venditore a Lumacchini si poteva pigliare. E allora? E lui, cioè, mi sa che c'erano dei bei apparati pure, no? E che apparato avesse non lo so. Però non sta tutto, tutto non lo detto. Chiama, chiama. Ah, la buona Torvaldino è stata recuperata tutto, però. La buona Torvaldino fa tutto. Facciamo tanto ruio. Quando vede che gli manca, poi il caso prende e se lo compra il baracchino attorno. È una malattia questa, la di gripe, giù di la droga, adesso qui, è così già. È una malattia, sono geloso, cazzo, c'è il BPC e io non me lo posso mettere. Meccate quella. Che qua, vabbè. No, se ti ha partito le fondo lì. La per... No, sono io che non le metto mai. È perché è fastidioso, vero? Perché si usa in banda laterale, veramente, perché vuol dire fine trasmissione. Cappa, adesso lo tolgo, te, avanti, ecco qua. Avanti non è guruzzù. Esatto. Che si usa in banda laterale, capito l'hai? Perché vuol dire fine trasmissione, no? Così uno si accorge che tu hai finito di parlare e riprende lui. Ah, cappa cappa. Infatti si chiama Roger Beat, veramente. Cappa Rogero. Chiama Gabber. Però veda, adesso va di fare un bel pesadino, poi riesci a fare compere così. Se una giugana, se no lo vescio. Vediamo un po'. Se ne ho voglia già esco, mi sono proprio il salto, non manca poca roba. e via. Infatti, se non voglio accesso, se no manco per il capo le mini passi. No, perché sto facendo freddo, non per altro. Poi dipende sempre da chi può andare, uscire. Sì, infatti. Secondo come te, ando, meraviglia è tornata subito. La mettiamo in giro, no? Pure per i due effetti, cazzo, è freddo il vento, beh. Per curare, no, che sono muoventi. Ehi, è vero, c'è vento, c'è. Poi ho diventato un freddo, mamma mia. A me mi sa che tramontana, chissà. Poco fa sono uscito, sarà una mezz'oretta, e stava proprio nel vischio, stava facendo. Sì, anche tramontana, si abbassa a zero, vedi, si fa di neve. E io bisogna di prima applicare la neve. Magari non so se non per niente, non che viene a me. È vero, perché sei nato così e è nata lì. Ci sono buttati da luce, lo chiedo qui. Vabbè, prima ci ha, Natali. Fa niente però, mi. Come da te? Fa niente però. Ah, beh, bisogna pagare, sennò non fa pagare di sciare. Agli amici gratis, vabbè, là, faccio lo sconto. Sì, già vabbè. Sei grisci via, ci è mogata. Sarà che è mogata due boccioni di vino, coglia, cosa avanti faremo? Ma con se tanto lavoravo se. Manco una vista venivo. E pure sarebbe bello, ma non sa che è andata in neve quest'anno, cosa dici Natalia? Non lo so, se la fa qua la fa sicuramente. Ehi, complimenti, è già fatta, capita. Sì, vabbè, ma noi siamo in un'isola. Ma non si sa mai, Ma se con la temperatura più del dovuto e penso che fioccherà anche qua. Sì, basta che scenda a 1-2 gradi e lo vedi a vedere se fa la neve. Grazie, grazie. Già andare, via. Vabbè, là, ci sentiamo più tardi, intanto Gianni sarà dormito. Guarda, Natale, a più tardi, va. Ciao, ciao, buon riposo, buon tutto, ce la ascoltiamo le bus. Ciao. Ciao, ciao, altrettanto, le bus. Sono a Pasqua. Buon Natale, buone feste. Ciao, patata, sono contento, grazie, grazie, grazie. Il microfono si intrattendi, lì. Si sente il solito, quello fa male. Guarda, sto facendo più forte di radio. Cosa vuoi che ti dica io? Ti sente più forte di radio. Vuoi il freddo? Cosa ne so? Sarà un freddo, sì, cosa vuoi che ti dica? Se no prendo in campagna, vedo un buggito da casa. Ma me l'ho già immaginato, a casa da io sta facendo pure il vento qua, e dove sei di quel vento di la lontana, cazzo, roba di freddo e prendi, quando ci sta bene, ma si c'è pure, tipo in minezza, no? Sì, è un frigo, ci voleva una bandiglia scattata, ci vuole. Andiamo, le chiamiamo, cazzo, qua, e sta cucutendo tutte e quattro, va lì. Andiamo col culo. Che ci dà il cuore di miglior raffreddore. Mi do bene il cambiamo. A fare il capo dei due. Vabbè là, ci sentiamo e parlare con Riccardo un po' là. Dopo ci sentiamo, si sa. Se la giugana, cazzo ma no, che mi pare che roba diversa e sente, per cuore lui non lo è, dici no. Sì, vabbè, ho fatto per questo. Senti, di cuore qui. Verso le 5 e mezzo andiamo. Facciamo la passeggiata, quindi mi sono pulito io da io e facciamo la passata alla distesa lì, o alla due spinta. Una vetta a costura. Mi lo vi, e chi dà lo sei, c'è in agguato era, in agguato era. Ma sei entrato adesso, Natale, mi sono permesso adesso di entrare, là. Stavo mangiando sino adesso. Dove mangiare, Romano? Ho fatto spezzi di pollo con i capperi, i pomodori, il formaggio sopra, filato. E poi abbiamo mangiato la pasta. Ah, è te la taglia, è te. Spezzi di pollo, fatale di seno. Grazie. E allora? Grazie, con il seno. Che tina. Vabbè, io me ne sono andato a fare un pisolino che tanto il tempo non è tanto per l'acquale. Mi pare che tanto tramutano, domani va in Malaneri. Allora che l'aeroporto di Bologna è chiuso, per quello che non è arrivato nulla. E allora, se la canto, non hai visto quell'incidente che è successo a Ferrovia? Sì, al telegiornale l'ho visto. C'è il destino lui, c'è la ragione. Dopo che tre lì a frenare ci mettono molto. E un mazzo ne è sceso, e si è messo in mezzo ai binari. E vabbè, ma se il treno riusciva a frenare un po' prima, magari sarebbe anche salvato, perché sarebbe fermato prima dal masso e via. Tutto al più sarebbero chiamati i soccorsi per togliere il masso, ma il freno, la frenata del treno è molto lunga. Vabbè, come il masso è caduto. Vabbè, diciamo che... Vabbè, è morto, diciamo, il... come si chiama? Quello che pilotava, diciamo, gli altri non si sono fatti niente. Non so se c'era la gente dentro, penso di no. Ma mi disti? Un treno! Vabbè, proprio per il destino. No, tre passeggeri dietro dell'equipaggio. Sta preso lui in pieno. Ma come un anno di sicuri chi su? Pagava. Erano tre. Un macchinista, un capotreno e poi altre tre persone. E vabbè, faccio l'anima sua già, se vuoi dire. E quelli di continente che stavano spargendo l'anticello, che hanno fatto un vetro di veloce, come cazzo si chiama, vabbè. Uno di quelli che ha la fase in piena. Passata! E questi di veloci, quelli di diretti. Cazzo in piano l'ha presa. Però si è salvato, si è buttato in una fossa, boh. Quando l'ha sfidato per seguito così. Basta uno, una scusa o l'altra. Come è fatto? Poi molte volte bisogna vedere se veramente usi il destino oppure uno sta alla cerca proprio. Fa finta di... Dai, no. Beh, pure la tentazione a volte vuol dire molto. Però in questo caso qua, quello si è visto la benda a fare nel rigore, è andato a frenare, non gli ha frenato. E l'unica cosa era, o lo faceva deragliare, però ammazzava tutti. L'unica era deragliare il treno, lui si spostava dal masso e non lo prendeva in pieno. Ma dico, lui le motorotte dice a lui e gli altri, con la disgrazia, ma vediamo se così, ma sicure magari... I casi possono essere tanti, non è detto che, vabbè, questo qua che è successo oggi si vede proprio, ma quello che è morto sotto la treccia, che ha schiacciato il treno, bisogna vedere se è veramente così, oppure magari chissà cosa c'era sotto. Beh signori, io vi saluto, dai, che sto chiudendo, ci sentiamo alle prossime. Una cosa mi tiene scendi, ma mi tira addosso. sezione che mi fa sezione. Quanto con una di Gianni, a te vedi rendere di conto, eh? Lo vedo. Pizzina, è un po' uomane. Così. Ehi, io non lo faccio più dalla printella. Senti, sei un po' uomane. Vabbè, là. Io me ne vado a coricarmi un po', che non siamo stanchi allo stesso modo con Gianni. Lui è stanco di non far nulla. Fai bene. Hai fatto il break, avanti. Io dopo 4 mesi sto parlando, da 2 anni, però. Ero 2 anni. Vabbè, lasciamo perdere. Avanti, Falchetti. Guarda che c'è un break, fallo entrare già. Avanti, break. Ciao Gianni, buonasera, ciao a tutti, ciao a Marino, ciao. Tutti quelli che sono sul 21, riprendi già. Ehi, ciao Capri 2, ben sentito, va. E allora, queste compere stamattina le fate o no? Me lo voglio lasciare perché vuoi vabbè. No problem, adesso se arrivano, se lo guarda su internet ce ne sono 4 o 5, MB più 5, MB più 4, MB più 9, ce li ha tutti. Tu se vai su internet, su Badumba, come si chiama, eBay, se vai su eBay, li trovi tutti. Come ha messo in vicola ascolta, troppe rabbia che mi piazza, non faccio freddo. Siamo cose che fanno di noi, stiamo là, ci mettono lo scorno, insomma. E se per qualche anno scambio mosche, cose, so, vediamo un po'. Ma c'è una bella, non so se te la ricordi, ma c'è una bella, Paese c'è Drummiddu, avanti Falchecche. Eia, già è bella la neve, però è dannosa comunque. È proprio vero, un po' è bella da una parte di vista, è però brutta dall'altra, diciamo, vai. Toccamo che bello. Siamo pronti a affrontare certe situazioni, non ci abbiamo messo. Infatti. E così è capito, riprendi. Di domenica mi ci riportiamo con le palle la domenica e poi il lunedì ci si torna la notte. Thank you. io, perché erano in due, uno da una parte e uno dall'altra. Uno diceva la capovolta dalla parte e l'altro diceva all'altra. L'ho ripreso per due volte e poi la testa mi tocca per cazzare e l'ho girata. Thank you. ma c'era del treno, c'era la macchina, figura qua, passò il mago del cinio, quindi non c'è treno, scampa. Thank you. sono io. Li riprendono in Sardegna a prezzi più alti. Così è già, così è.